get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, e siamo tornate, benvenute alla nostra trasmissione 113, credo di aver fatto giusti i calcoli, se no Caterina poi mi sgrida per l'ennesima volta. E benvenute a È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Oggi qui in studio siamo io e Lucilla. Ciao, e prima di tutto buon anno, no? Buon anno! Buon anno a tutte, speriamo che avete trascorso delle belle vacanze, che abbiate iniziato bene il 2003 e che vi siamo anche mancate un poco. Allora, salutiamo tutte, salutiamo le ascoltatrici sintonizzate su Radio Onda Rossa e quelle collegate via internet, perché vi ricordiamo che potete ascoltarci dalla pagina www.clrbp.it/laradio e cliccare sull'icona in diretta e quindi dopo pochi secondi sarete in collegamento con noi. Potete come sempre inviarci i vostri suggerimenti, commenti, poesie, storie al nostro indirizzo email che è contatti@clrbp.it e salutiamo tutte quelle, sono state veramente in tante, che ci hanno augurato buone vacanze, sono state molte carine, ci hanno inviato un sacco di email. Se invece volete chiamare qui in radio potete farlo entro un'ora, dalle 9 alle 10 saremo in vostra compagnia, sarete in nostra compagnia allo 06 49 1750 e anche per un trillino per dirci che vi piace quello che stiamo leggendo e i brani che abbiamo scelto questa sera. Bene. Allora, questa sera partiamo con la lettura di un pezzo che ci ha inviato Rosanna Fiocchetto, che per noi è una guida, e che è sull'identità. Questo pezzo lei lo ha scritto per la rivista Towanda, che però sappiamo da lei che non è stato pubblicato per intero, e noi invece abbiamo voglia di leggervelo per intero, perché si fa un gran parlare del superamento del dibattito politico sull'identità lesbica e invece io credo che sia ancora importante parlare di identità. L'altra cosa che volevamo dirvi è che appunto, poi più tardi ve lo diremo, vorremmo ricordare Monique Wittig, come già nell'ambito del martedì è stata ricordata, ma questo lo faremo dopo. Per ora salutiamo Rosanna Fiocchetto, che ci ha inviato Vita e morte dell'identità e che vi leggeremo tra breve. Dovremmo mandare anche un sottofondo musicale che attualmente non abbiamo. Annalisa, aspetta un secondo, parla un po'. Sì, mentre Lucilla mi passa questo sottofondo, io vi ricordo che potete chiamare qui in radio allo 06 49 1750. E io direi, ok, grazie per il trillino, se era per noi, io direi di partire con magari con la lettura e poi cerchiamo con calma il sottofondo, magari lo cerco io. Torna Lucilla. Bene, allora, si chiama Vita e morte dell'identità. Nella mia esperienza, il lesbismo è inestricabilmente legato ad un movimento di donne, alla vicinanza e alla comunicazione tra corpi e menti di donne. Corpi forti e gentili, tra i quali mi sento a casa, profondamente a mio agio. Menti intuitive e brillanti, percettive, sensibili, sempre aperte alle emozioni, con le quali riesco spesso a comunicare telepaticamente. In questa dimensione, in questa realtà relazionale, trovo e ritrovo la mia identità e la mia identificazione primaria. L'ipotesi di vivere politicamente il mio lesbismo in un contesto che includa gli uomini e di cancellare teoricamente le differenze materiali di sesso, sessualità e genere, insieme ai conflitti ad esse inerenti, è per me un'idea aliena e visceralmente sgradevole, opposta alla felicità dell'essere. Una situazione che non si accorda, una situazione che non si accorda con il mio erotismo e che forse potrei accettare se non avessi vissuto la possibilità concreta di un'alternativa. Ma l'ho vissuta. E come ha scritto Audre Lorde, una volta che abbiamo sperimentato la pienezza di queste profondità di sentire ed abbiamo riconosciuto il suo potere, per onore e rispetto di noi stesse, non possiamo pretendere niente di meno per noi. Dunque, riprende Rosanna, scelgo di non adeguarmi alla schizofrenia patri-patriarcale e di non separare felicità e politica, desiderio e politica, sessualità e politica, identità e politica e così via, fino alla totale ed autolesionista scissione della sfera politica da quella personale. Continuo a vivere sentendomene appagata la mia identità personale e politica di lesbica separatista, dalla quale derivo la mia teoria fondata sulla comprensione di alcuni fatti fondamentali dell'esistenza. Li riassumo molto sinteticamente. 1. L'eterosessualità, piuttosto che una scelta personale, è un'istituzione politica e sociale del patriarcato che ci viene imposta fin dalla nascita, in Italia, per la maggior parte della popolazione, insieme al battesimo, come sistema di controllo degli uomini sulle donne e nella quale veniamo allevate e condizionate. 2. Questa istituzione è basata sul rapporto di dominio e subalternità tra uomini e donne, e sulla distruzione dei rapporti erotici, emotivi, culturali, politici ed economici delle donne fra loro. 3. Alla luce di questa analisi, il lesbismo non è solo una semplice scelta o un fenomeno sessuale, ma un'esperienza di identificazione tra donne potenzialmente sovversiva dell'ordine patriarcale, una forma di resistenza al potere maschile sulle donne. Per questo motivo il lesbismo è oggetto di una maggiore repressione, cancellazione e o riduzione culturale rispetto all'omosessualità maschile, la quale, pur rappresentando una devianza dalla norma eterosessuale, è comunque funzionale al sistema di riferimento privilegiato tra maschi. 5. La chiave politica che può far saltare o modificare questo sistema e i suoi valori misogini e oppressivi è il riferimento personale e politico tra donne e il loro posizionarci come soggetti critici e antagonisti rispetto all'attuale situazione di potere e di sfruttamento patri-fratriarcale. E adesso c'è uno stacco musicale. Questo pezzo è da canti di Maremma e d'Anarchia, della grandissima Caterina Bueno, una grandissima ricercatrice, si intitola Le streghe di Bargazza. Non più macchine e vagoni, o ci son certi caproni, quanti miglia del pensiero, io posso dirvelo che vi sono stato, e non è favola, credete a me, vorrei che provino chi non c'è stato, che bello andare a tutt'aria che gli è. l'altro giorno ero a Bargazza, qui mi è nato ad un festino, erano sempre a me vicino, due ragazze a favella. Poi venne l'ora della partenza e loro mi chiesero andare con sé, io mi accompagno, ma in conseguenza che bella andare a tutta aria che gli è. Discorrendo per la via, noi giungemmo a casa loro, non vi dico che lavoro, che si posero a trama, posto arrivati presto in vasetto, funzero tutte molto anche me, dicendo ungete vi fa buon effetto, che bella andare a tutta aria che gli è. Modesto contrattempo, ecco un capro grosso e nero, di mandare io dico il vero, come si voleva andare, risponde una la domedaria, si fa più presto e ciò più piace, dice le tardi sa andare a tutt'aria, che bello andare a tutt'aria che gli è. E si monta a cavalluccio, ci portò tanto lontano, che le stelle con la mano ci pareva di toccare, pareva un fulmine tra le comete, questo caprone con noi altri tre, pare impossibile se non ci credete, che bello andare a tutt'aria che gli è. Io non vidi né campagne, né città, pianure e monti, non è caso che io racconti dove il diavolo ci portò, in un palazzo illuminato, di dentro e fuori che era un piacere, di tende e pendoli tutto adornato, che bello andare a tutt'aria che gli è. E continuo a leggervi il brano e l'articolo mandato da Rosanna Fiocchetto, che dice, che scrive: da questa prospettiva si può fare a meno dell'identità e di una politica dell'identità? Evidentemente no. Posso capire il discorso della cancellazione dell'identità di genere sessuale da parte delle persone trans, perché corrisponde alla loro esperienza e al loro progetto. Ma non mi sembra che la strategia, o piuttosto l'illusione, di distruggere il concetto di genere corrisponda all'interesse politico delle donne lesbiche, almeno non al mio. Nello stesso modo posso capire che gli omosessuali maschi si appaghino della rivendicazione di diritti civili eterosessuali e dello sviluppo dell'imprenditoria gay, ma da un movimento lesbico io mi aspetto qualcosa di più. Il dibattito sull'identità è stato presente sin dall'inizio del nostro confronto teorico di movimento. Il convegno lesbico di Roma del dicembre del 1981 dedicò una delle tre giornate di discussione a questo tema, approfondito nei successivi convegni e soprattutto in quello del 1985 su ricerca lesbica, realtà, etica e politica dei rapporti tra donne. Rispetto a queste elaborazioni, le accuse di essenzialismo e di individuazione ristretta del sé, che vengono mosse da chi avversa la politica dell'identità, sono veramente ridicole. La nostra caratteristica di essere un branco molto indisciplinato ha comportato subito un approccio totalmente anomalo alla definizione stessa di identità, che, tanto per cominciare, è stata immediatamente declinata al plurale. Ma anche all'interno del sostantivo singolare è emersa quasi automatica la autocoscienza della contraddizione e della complessità, di esperienze multiple della soggettività. Ricordo in particolare uno dei secchi acuti aforismi di Elena, che dice: «L'identità interiore e sociale che forma un soggetto ha già in sé i propri conflitti. Ognuna di noi può sottrarsi alla lettura conturbante di se stessa, ma in questo caso abbia l'etica decenza di guardarsi come si guarda l'impossibile che rimane tale, senza voler togliere alle altre l'eccesso dell'accadimento». E rispetto alla politica della visibilità, ne rammento la bella interpretazione di Santina. Mi interessa la visibilità delle modificazioni, rendere visibili i cambiamenti che riusciamo a costruire tra di noi, a partire dal fatto che facciamo l'amore con un corpo di donna, un invito a socializzare il nostro particolare rapporto con la vita. E proponiamo adesso un brano della nostra carissima Oshi Kuriel, che ha fatto anche un concerto al Centro Femminista Separatista, e magari se se ne ascolto la salutiamo pure, e proponiamo il suo brano che è Illusiones. eso yo no quiero callar. Voy oliendo a futuro, todo el mundo inseguro, ya nadie sueña más. Pensamos que somos seres de rebeldía, que estamos ausentes de esas grandes mentiras, que ellas mejoran porque van a la guerra, y hacemos poder aceptando las reglas. Ilusiones, esa es la realidad. Vendemos el alma todo por concertar. Ilusiones, y se quiere engañar. La muerte te acecha si no miras atrás. Ilusiones, no quiero escuchar más. Repatriando braseros, les encanta hablar de paz. Nos pasamos el tiempo releyendo los vientos, nada logra cambiar. Mujeres violadas no es noticia del día, ni el árbol que corta mientras muere la vida. Opciones sexuales suenan como castigo, y el viejo tirano ya no es enemigo. Ilusiones, esa es la realidad. Piensan en nosotras cuando cuotas nos dan. Ilusiones, quien se quiere engañar. Dichiararsi lesbica non è il punto di arrivo della ricerca di identità, è invece il punto di partenza di una ricerca che rifiuta la categoria unificante della diversità per esplorare una cultura delle differenze, per ripensare la totalità a partire dal proprio specifico. Attraverso il femminismo negli anni 70 e il movimento lesbico femminista degli anni 80-90 hanno potuto incontrarsi, conoscersi, confrontarsi, trovare punti di contatto e di crescita migliaia di donne lesbiche che erano state drasticamente separate prima dal fascismo e poi dall'integralismo cattolico del dopoguerra italiano. Negli ultimi anni L'arretramento del movimento delle donne sotto l'ondata di reazione congiunta del patrifratriarcato, del fascismo liberale e del nuovo fondamentalismo religioso ha determinato il passaggio di molte, soprattutto delle più giovani che non hanno vissuto il femminismo, da questo movimento madre ad un movimento padre-fratello. Il risultato è che oggi ci si interroga di nuovo sull'esistenza di un'identità lesbica, tanto più che si sono moltiplicate varie teorie anti-identitarie. Dichiarando la mia solidarietà con le nostre tipiche fasi di disorientamento, cercherò di spiegare qual è il mio punto di vista di una politica in cui nessuna parla per tutte, ma ciascuno parla per sé. Quella lesbica è forse l'unica minoranza al mondo priva di gruppo sociale, di comunità o almeno costantemente a rischio di essere disintegrata. Questo significa che i legami connettivi tra le individue che vanno al di là di rapporti duali o microtribali più o meno effimeri e che siano prive di strumenti di trasmissione culturale e di valori concordati, prive di un'identità che non sia quella definita di volta in volta dagli altri gruppi sociali. Nella storia umana non ci sono altri esempi di simile livello di oppressione. La specialissima oppressione lesbica è che noi non siamo, non dobbiamo essere. Alla radice della libertà lesbica c'è dunque proprio la questione dell'identità. Ed ogni volta che facciamo un passo avanti in questa direzione, che cominciamo ad affermare, ad autodeterminare e a costruire una nostra identità individuale e collettiva, o almeno a discuterne, la cultura patri-fratriarcale si precipita a smantellare la nozione stessa di identità. Per il costruzionismo storico, il lesbismo e l'omosessualità esisterebbero solo in quanto costruzione sociale della sessuologia ottocentesca. I costruzionisti, praticamente, scrivono sulle lapidi tombali di tutte le lesbiche e gli omosessuali assassinati nei secoli precedenti l'epigrafe «Voi non siete mai esistiti». La conseguenza più grave di questa teoria è lo scippo della storia, cioè della base necessaria all'autoriconoscimento di una comunità. Abbiamo un altro stacco musicale ed è Alteration, dal CD proprio Alteration di Sylvie Genovese, che altre volte noi vi abbiamo mandato in onda. Gente non parla più, basta un accento per rivelare il nemico vite terreur, tout en couleur sur le téléviseur. L'histoire agonise et la géographie s'enivre. Mais où est-on, hornique un carreau, parlez-vous de vous à moi, de vous à vous, et vous, qu'en pensez-vous? Et pendant ce temps-là, dans les bars du samedi soir à gare, les gens s'altèrent, se désaltèrent. Spectateur anonyme de la dérive alerte, vie de survie en noir et blanc photocopie. L'histoire agonise et la géographie s'enivre. Mais où est-on, hornique un carreau, barbarez-vous de vous à moi, de vous à vous. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, de vous à moi, de vous à vous. Thank you. si l'autonomie. C'est instinctif, c'est couleur solitaire. La vie sous vide, en autarcie. Non, ce n'est pas un pays, c'est pas le paradis. Non, ce n'est pas un pays, c'est pas le paradis. Mais c'est la vie. Le ideologie transgender e queer, che considerano fittizio il genere sessuale e relativizzano l'identità, hanno invece come conseguenza la mistificazione delle gerarchie sociali patriarcali. Cancellando la realtà effettiva di oppressione e discriminazione che le donne subiscono e contro le quali lottano in tutto il mondo, rendono illusoriamente labile e temporaneo il contesto sociostorico. Penso che una donna lesbica, facendo proprio queste teorie, acconsente e contribuisca alla soppressione di sé come soggetto. Ciò significa alimentare il fronte ideologico, politico e accademico, di un sistema che continuamente riorganizza il controllo e la manipolazione dei gruppi sociali oppressi ed equivale ad un'autopersecuzione. Questa tendenza in noi all'autopersecuzione e all'autoannullamento non mi meraviglia, considerando la pesantezza storica delle persecuzioni e degli annichilimenti che ci hanno investito, che certamente abbiamo introiettato e che costituiscono la nostra eredità negativa. Dico semplicemente che bisogna resistere a questa tendenza, a questo flirt intellettual necrofilo e posizionarci criticamente nei suoi confronti in modo fieramente biofilo. Nello stesso modo in cui scegliamo di difendere e preservare la biodiversità su questo pianeta contro le monoculture della mente. Non è un caso che le teorie queer e transgender nascano parallelamente al processo di globalizzazione. La vorace inclusività ideologica del pensiero queer, il rivendicare tutto e il contrario di tutto, compresi la famiglia, il nazionalismo, la classe, è una forma di partecipazione al consumo globale. Niente di nuovo sotto il sole. Riaffiora il paradigma storico dell'androginia, da Platone a Jung, che rappresenta la volontà di controllo dell'uomo sulla donna, la fantasia di poter assorbire le sue qualità e i suoi poteri creativi. Il lato pericoloso, cioè indipendente, del femminile, viene neutralizzato controbilanciandolo con le qualità maschili. Trascendendo il dualismo sessuale, il mito androgino si sbarazza del genere e di altri elementi contingenti, storia, classe, razza. Un'ingegneria genetica, mentale e virtuale, le cui versioni più recenti sono il cyborg e il transgender. Non è possibile una rivoluzione senza soggetti che la fanno. E la nostra soggettività, l'esperienza soggettiva di essere una donna lesbica, è costituita da una condizione che non può essere in alcun modo trascesa, ma che va invece utilizzata per la costruzione di significato. Altrimenti per noi ci saranno sempre solo politiche insignificanti. Con questo voglio dire anche che non va smarrito il significato della connessione e della conseguenzialità tra causa ed effetto. Ad esempio, la tendenza alla soppressione dell'identità e dell'identificazione di genere per le donne e la parallela caduta di tensione rivoluzionaria di cambiamento dovrebbero farci capire che non è questa la strada per cambiare. E adesso, sì, vediamo se la riconoscete. E Maser delle Mafugage. We'll be right back. assurdo sostenere da un lato l'importanza della visibilità e dall'altro accettare le teorie post-strutturaliste che ci fanno sparire, che ci fanno sparire per decostruire le categorie di sesso e di genere. E come si può da un lato lottare contro la globalizzazione e dall'altro accettare di essere incorporate e globalizzate in una generica cultura gay o in un ancor più generico movimento queer? Come sanno bene tutti gli oppressori e i colonizzatori, decentrare il soggetto, cancellare la sua identità individuale e collettiva è il modo migliore per sradicare la sua resistenza e la sua ribellione. Dunque, perché scimmiottare in modo autolesionista una strategia del pensiero dominante? Ma forse la scissione è entrata così profondamente nelle nostre vite che non la notiamo neanche più. Anzi, l'abbiamo adottata come modo di pensare. Non è una contraddizione in sé interrogarsi sul nostro status ontologico, dubitare di esistere materialmente come soggetti al di fuori del discorso patriarcale, quasi fossimo davvero una categoria patologica? Alcune considerano la politica dell'identità come uno strumento, ma non come un obiettivo. La reputano un processo necessario, ma più culturale che politico. E assegnano il ruolo di veri obiettivi politici a lotte come quelle per la ridistribuzione della ricchezza e delle risorse, sostanzialmente tra uomini. Perché mai dobbiamo annullarci in una causa comune che, guarda caso, esclude o mette in secondo piano o considera solo strumentale la nostra identità? Perché mai non possiamo fare tutte le lotte che vogliamo come lesbiche senza rinunciare alla nostra identità, anzi, a partire da essa? Forse perché è un'identità scomoda e stigmatizzata che apre contraddizioni in ogni fronte? Così, per paura di creare contraddizioni, ce le assumiamo tutte noi, cominciando da quella di essere non soggetti della nostra lotta. Che senso ha questa separazione tra cultura e politica quando sappiamo perfettamente bene che ad ogni cultura e politica quando sappiamo perfettamente bene che ad ogni colonizzazione politico-economica si è accompagnata una colonizzazione culturale dall'impero romano a Berlusconi? Occorre anche riflettere sul significato della parola neutralizzare in rapporto alla strategia di dominio. Rendere neutri nel linguaggio, nella sessualità, nella politica è una menzogna che serve ad annientare persino la politica ontologica di sovversione. E adesso un altro stacco musicale. I put a spell on you. Yeah. a spell on you. Because I'm a dandy, I'm the dandy. Continuiamo la lettura con l'ultimo, con diciamo la conclusione dell'articolo bellissimo scritto da Rosanna Fiacchetto, la quale conclude dicendo che l'identità è sempre stata centrale per la politica lesbica femminista come riconfigurazione delle identità create dalle ideologie maschili e attribuite alla donna e come ristrutturazione della realtà patriarcale. Per le lesbiche il processo di coming out ha un particolare significato di individuazione del sé in rapporto alle altre, piuttosto che di semplice visibilità. Un'accettazione di identità che ci connette alle altre in quanto noi stesse, cosa che nel patriarcato ci è sempre stata vietata, consentendoci di esprimere una comunità. Non solo abbiamo bisogno di identità, ma abbiamo anche bisogno di elaborare una nostra costruzione sociale di identità. Abbiamo bisogno di lotte lesbiche, di storia, cultura, sessualità, spiritualità lesbica. Abbiamo bisogno di una concreta comprensione del rapporto tra sesso e genere. Abbiamo bisogno della nostra differenza per poter capire noi stesse e i nostri corpi, per poter comunicare in modo solidale con chi è diversa da noi. Il soggetto plurale che è in noi e tra di noi, se riconosciuto e valorizzato, non rischia di farci perdere la ricchezza delle nostre identità, oppure di oscurare l'identità delle altre. In noi stesse convive un'identità multiple, originaria oppure messa in opera dalle nostre scelte o da fattori esterni. Quindi, c'è naturalmente congeniale il concetto di azione politica collettiva che tuttavia non sopprima le differenze e che anzi può fornire un modello di politica pluralista ad altri movimenti progressisti. Monique Wittig ha evocato la lesbica in uno spazio al di là del genere, definendola in senso materialistico non donna, soggetto marginale che rifiuta il dualismo. Ma il genere che a Wittig interessa distruggere metaforicamente è soprattutto quello maschile. La sua società utopistica post-patriarcale è formata da sole donne ed è stata guadagnata attraverso la rivolta. E la sua identificazione fondamentale è lontana anni luce dall'ideologia transgender e queer, quando afferma: solo il movimento delle donne si è rivelato capace di produrre testi lesbici in un contesto di totale rottura con la cultura maschile, testi scritti dalle donne esclusivamente per le donne, incuranti dell'approvazione degli uomini. Sono una donna che scrive delle donne e per la liberazione delle donne. È lo stesso atto, non posso dissociare i due termini. Esso impegna il mio corpo, il mio desiderio, i miei sogni e la mia speranza. Se il movimento delle donne muore, io muoio. La mia persona perderebbe ogni realtà, ogni senso.